Tell me now, now, now. Si, si, bueno, si, si, fesa. Oh, yeah. Tell me now, now, now. Si, so, bueno, si, so, fesa. Oh, yeah. Woo! Stai negativi, si muore un tempo fa.